giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Proseguono incessanti le ricerche dei tre ragazzi dispersi nel Natisone da ieri. Le famiglie di Patrizia Cormos, 20 anni, di Campoformido, Bianca Doros, di 23 anni, arrivata da poco in visita dai genitori che risiedono a Udine, e suo fidanzato Christian Casian Molnar, 25 anni, sempre romeno ma residente in Austria, hanno passato queste ore sul fiume dove è allestita la base logistica dei vigili del fuoco, nell'angosciante attesa di notizie. Nella notte è stato intercettato il segnale del cellulare di una delle ragazze sotto le acque ancora impetuose del Natisone, poco a valle del Ponte Romano, dove sotto gli occhi di decine di testimoni i tre giovani sono stati inghiottiti dal fiume. Anche per la comunità di Campoformido, dove risiede con i genitori Patrizia Cormos, sono ore di terribile attesa. Le voci e la preoccupazione dei compaesani della ventenne che ieri mattina, prima della gita a Premariacco, aveva sostenuto un esame all'Accademia di Belle Arti Tiepolo di Udine. Non andare, sei stanca, rimani a casa a riposare, le aveva detto la mamma, come riportato in un'intervista del Messaggero Veneto. Una vittima del maltempo e della piena dei fiumi si è registrata ieri in Slovenia. Un uomo che stava percorrendo in kayak la parte oltre confine dell'Isonzo è annegato. Mobilitazione di comitati e cittadini a Spilimbergo contro il progetto per la traversa sul ponte di Dignano, opera da 200 milioni di euro. In mattinata raccolta firme e volantinaggio, nel pomeriggio una camminata di sensibilizzazione. Scambi di studenti e professori fra università europee, già 1000 gli universitari di Trieste e Udine che quest'anno hanno scelto di trascorrere un periodo dei loro studi all'estero, un numero in costante crescita ogni anno. Il 33% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni ha dichiarato di subire atteggiamenti possessivi dal partner e tra questi il 66% delle ragazze subisce pressioni per non indossare determinati capi di abbigliamento. Lo rivela il report Giovani e la violenza di genere, un'indagine condotta nelle scuole di tutta Italia dalla polizia. Il Friuli Venezia Giulia con la ciclovia Pedemontana vince la nona edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, che viene assegnato ogni anno alle ciclovie verdi delle regioni che promuovono la vacanza su due ruote e il turismo lento. È risultata la migliore fra le 25 in gara in tutta Italia. Buongiorno, ben ritrovati da Lara Zani e Francesca Vigori. Le operazioni di ricerca dei tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone a Premariacco non si sono dunque interrotte durante la notte e proprio grazie al sorvolo dei droni dell'asta del fiume nelle ore notturne è stato possibile intercettare il segnale di un cellulare sott'acqua. I sommozzatori hanno però difficoltà a individuare il punto esatto a causa dell'acqua limacciosa, della profondità e della velocità del flusso che subito dopo il Ponte Romano accelera ulteriormente. E proprio lì si sono recati i familiari dei tre giovani nella disperata attesa di notizie. Piangono, si abbracciano e provano a sostenersi l'un l'altro, i parenti dei tre dispersi giunti sul posto più vicino a dove è stato intercettato il segnale del cellulare della ragazza che aveva per prima lanciato l'allarme chiamando il 112. È venuta ad aiutarli anche una psicologa volontaria della protezione civile regionale. I giovani dispersi si erano resi conto che il punto dove erano, il ghiaione sotto il Ponte Romano, era diventato all'improvviso un isolotto. In pochi minuti l'acqua è salita fino a travolgerli. Oggi, con il livello del Natisone più basso, è emerso dall'acqua il luogo preciso dove erano stretti nell'abbraccio prima di essere trascinati via, poche centinaia di metri più a valle, appunto il segnale del telefono della ragazza in una zona impervia, una forra molto profonda, captato di notte da uno dei droni che hanno continuato a volare. Con la luce del giorno è ripresa con tutti i mezzi disponibili l'attività di ricerca. I sommozzatori specializzati nelle operazioni fluviali stanno scandagliando il Natisone in vari punti, finora senza successo. Dall'alto gli elicotteri e i droni cercano elementi utili. È stato anche visualizzato un filmato di 2 ore di ieri pomeriggio dello sbarramento di Manzano, più a valle, ma anche in questo caso senza esito. Premariacco è una comunità profondamente colpita dal fatto perché già in passato in questa zona si sono verificate tragedie. Il fiume può crescere molto rapidamente, proprio come è accaduto ieri, passando da una portata di pochi metri cubi al secondo a 250 metri cubi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Si registra una vittima accertata del maltempo di ieri nella parte slovena dell'Isonzo. Ieri pomeriggio ha perso la vita un uomo che ha tentato di affrontare la piena del fiume con il kayak. Il suo corpo è stato recuperato. Al momento non sono note le sue generalità. Ora Uno sguardo al meteo, il cielo è variabile su pianura e costa, coperto in montagna, le temperature registrate alle 11, a Trieste 17 gradi, mare poco mosso, con temperatura di 20 gradi, a Pordenone e a Gorizia 18 gradi, a Udine 17, a Tolmezzo 12, a Tarvisio 10, a Forni di Sopra e a Piancavallo 9, a Sappada 7, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 4 gradi, a Lignano 19, a Grado 17. In queste località la temperatura del mare è di 20 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile. Al pomeriggio sulla zona montana saranno possibili dei rovesci sparsi o qualche isolato temporale, che non si esclude possa interessare anche alcune zone di pianura. Domani cielo poco nuvoloso su pianura e costa, cielo variabile sulla zona montana, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci sparsi o delle brevi piogge localizzate, venti di brezza. E ancora cronaca, un'auto uscita di strada ha sfondato la ringhiera in metallo e è finita in un campo dopo un volo di circa 2 metri, ma quando sono arrivati i soccorsi il conducente si era volatilizzato e tutte le ricerche hanno dato esito negativo. È accaduto attorno alle 4 della scorsa notte a Prato Carnico di fronte al municipio. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale della SORES, i carabinieri di Tolmezzo e i vigili del fuoco di Udine, ma nonostante abbiano perlustrato la zona con i fari nella notte non hanno trovato traccia del conducente. Torniamo ora a parlare della tragedia del Natisone a Campoformido, dove risiede Patrizia Cormos, 20 anni, sono ore di terribile attesa. La comunità sta seguendo con apprensione l'incidente. A partire da ieri, quando hanno cominciato a diffondersi le angoscianti immagini dei 3 ragazzi abbracciati e della loro scomparsa nelle acque della piena improvvisa e violentissima del Natisone. Una comunità sconvolta e speranzosa in un miracolo, quella di Basaldella di Campoformido, dove risiedeva Patrizia Cormos, la più giovane dei 3 travolti dalla piena del Natisone a Premariacco. Patrizia, 20 anni, al secondo anno dell'Accademia delle Belle Arti Tiepolo di Udine, insieme ad un'amica, Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori che vivono a Udine, e a un amico, Molnar Christian Casian, di 25 anni, si erano recati nella zona di Premariacco Beach per fare delle foto. Morire così è una cosa veramente, cioè non è giusto, ecco. Sono una nonna, una madre, quindi di conseguenza si pensa subito ai genitori, quello che potranno, cioè, sopportare, insomma. Questa comunità come sta vivendo la tragedia dei 3 ragazzi? Beh, sicuramente in sofferenza, in grande apprensione, in attesa di avere notizie. Diciamo che fortunatamente noi non sappiamo esattamente come si sono chiuse le cose, quindi la speranza in questo momento è quello che è il sentimento più importante, ecco, per noi. Quindi speriamo ancora che qualche miracolo, qualcosa, abbia fatto sì che queste persone possano ancora essere vive, recuperabili. Ieri quando ho visto le immagini sono stata malissimo, non si riesce a capire come possano succedere queste cose, visto che c'era l'allerta gialla e tutto quanto. Mi dispiace tantissimo per le famiglie, non sappiamo più cosa dire. Dispiace, sono sempre 3 ragazzi, è una cosa brutta. Tutto il paese è scosso, insomma, parlando anche nei bar di qua e di là. Non capiamo come possa essere accaduta una cosa del genere, c'è veramente un lutto cittadino. Una ragazza che abitava qua vicino, la vedevamo passare ogni tanto, veniva qua al bar, all'edicola. Patrizia, nata a Colleferro in provincia di Roma, dopo aver sostenuto un test per accedere all'esame di modellazione in 3D in programma a luglio, si era ritrovata intorno all'ora di pranzo con gli amici per andare a fare un giro all'aria aperta, stare in compagnia. Avevano scelto come destinazione la spiaggia del fiume Natisone, situata sotto il ponte romano a Premariacco. Poi l'incidente. Basaldella di Campoformido, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Cittadini e comitati si mobilitano a difesa del tagliamento contro la traversa di laminazione di Gnano Spilimbergo. Associazioni, comitati, ma anche singoli cittadini e cittadine si sono mobilitati a Spilimbergo per una nuova campagna, questa volta a tutela del fiume Tagliamento. Gli attivisti contestano l'ipotizzata traversa sul ponte di Dignano, opera dal costo stimato di 200 milioni, finalizzata alla laminazione delle piene, con 35 paratoie lunga oltre un chilometro, di cui la regione ha approvato il documento preliminare alla progettazione. In mattinata, raccolta firme e volantinaggio, nel pomeriggio alle 16, una camminata di sensibilizzazione accompagnati da esperti del fiume. Francesco Franz per la campagna Tagliamento Libero, Tagliamento Libero. Una campagna che vuole tutelare il Tagliamento, quello che noi crediamo essere un bene pubblico, un bene comune dell'intero Friuli, e vuole appunto difenderla da qualsiasi opera impattante, da qualsiasi grande opera inutile che andrebbe a devastare un bene che dovrebbe essere invece, come riconosciuto anche da leggi europee, dovrebbe essere lasciato il più naturale possibile. Silvana Ross per l'associazione Assieme per il Tagliamento. Stiamo facendo una petizione firme contro questo ecomostro che vogliono fare nel nostro bellissimo fiume il Tagliamento, chiamato il Re delle Alpi. Continuiamo questa battaglia fino a che qualcuno ci dia una risposta. Martedì 4 giugno alle 11.30, presidio No Diga in piazza Adignano. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A quale prezzo la chiusura dei confini? Se lo chiedono le segreterie provinciali di Trieste, dei sindacati di polizia SIULP e COISP, dopo che altre sigle si sono espresse invece in modo favorevole sulla sospensione del trattato di Schengen in occasione del G7 in Puglia dal 13 al 15 giugno. SIULP e COISP contestano la tesi che si tratti di rinforzi, parlando invece di mere aggregazioni che nulla aggiungono, dicono, all'organico esistente. In uno scenario complesso e con mille impegni all'orizzonte, continuano i due sindacati, sia su scala nazionale che locale, con un organico sempre più risicato per proseguire con questi controlli. Il personale della Questura di Trieste è stato ora chiamato all'aggregazione presso i valichi di frontiera, andando inevitabilmente a scoprire ancor più le articolazioni impiegate nel controllo del territorio, nello svolgimento delle indagini o che a qualsiasi titolo quotidianamente hanno a che fare con il cittadino. L'alternativa suggerita dai sindacati per la prosecuzione dei controlli ai confini è quella di un rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne Schengen, implementando gli organici Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera. Un questionario e un report realizzati dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale su 30.000 ragazzi fra i 14 e i 18 anni in Italia raccontano come i giovani vedono la violenza di genere. Nel servizio di Rodolfo Lorenzoni da Roma, le interviste a Carla Garlatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e Stefano Delfini, direttore del Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Polizia di Stato. I giovani e la violenza di genere. Qual è la percezione, qual è il coinvolgimento dei nostri ragazzi rispetto ai problemi del controllo e dell'aggressività fino alla sopraffazione che si consumano tra coetanei? I questionari e i report realizzati dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, che hanno interessato oltre 30.000 ragazzi tra i 14 e i 18 anni, danno una misura della larga entità e della buona consapevolezza del fenomeno. Il 33% degli studenti ha dichiarato di subire atteggiamenti possessivi da parte del partner. Tra questi, il 66% delle ragazze patisce pressioni dal fidanzato perché non indossi certi capi di abbigliamento. Soprattutto nelle ragazze vi è troppo spesso l'idea che certe attenzioni siano delle manifestazioni di affetto, di protezione. Non sono manifestazioni di affetto, sono forme di possesso che possono purtroppo degenerare. Un giovane su cinque si è trovato in una relazione tossica ed in particolare afferma di aver subito il controllo del proprio telefonino. Circa la metà degli intervistati ha dichiarato di disapprovare questa condotta invadente. Emerge da parte dei ragazzi una grandissima consapevolezza sul tema della violenza di genere, e emerge anche la necessità di parlarne, di essere coinvolti in tutti i processi decisionali che li riguardano. Parte integrante della questione è diventato l'uso dei social, in molti casi non più soltanto mezzo, bensì causa scatenante del problema. Consola però che i ragazzi ne siano consapevoli. Nel questionario, infatti, esprimono una prevalenza di valutazioni negative sul ruolo di certa comunicazione informatica interpersonale. Sono già 1.000 gli universitari di Trieste e Udine che quest'anno hanno scelto di trascorrere un periodo dei loro studi all'estero, un numero che è in costante crescita. Sentiamo. In principio era l'Erasmus, ora, dopo quasi 40 anni, i veicoli capaci di far incontrare la gioventù universitaria europea, e non solo, sono molti di più. Una rosa di progetti variegata e strutturata su differenti esigenze formative si è aggiunta all'originario programma, pensato negli anni 70 e ufficializzato nell'87. Incontri non solo in Europa, ma soprattutto all'interno dell'Unione, con tanto lavoro per non escludere Atene e studenti della Gran Bretagna dopo la Brexit, studenti in uscita dall'Italia e studenti che arrivano da noi. Sono le due facce dell'internazionalizzazione. Trieste e Udine incrementano i dati su entrambi i fronti. Da Trieste nel 2022 erano usciti in 372 in Erasmus, più 142 per tirocini brevi, in totale oltre 500. Nel 2023 il totale è salito a 635 e quest'anno sono già quasi 600, ma altri bandi stanno per partire. Cifre in aumento anche per Udine, 650 in totale nell'anno accademico 22-23 e sono già 366 in quello in corso, ma solo per il primo semestre. La professoressa Barbara Milani è la referente per l'internazionalizzazione dell'Università di Trieste. La destinazione preferenziale è la Spagna, seguita dalla Germania, dalla Francia. Queste sono le nostre destinazioni a due cifre. E ultimamente stiamo anche aprendo di nuovo gli accordi con la Gran Bretagna e con altri paesi extra UE, come ad esempio il Giappone. Medesime mete anche per gli iscritti all'Ateneo Friulano. Fra le possibilità, lo studio in mobilità per doppi titoli, significa svolgere un pezzo della magistrale presso un'università europea, conseguendo la doppia laurea all'Ateneo di appartenenza e in quello estero. Tutto passa attraverso accordi bilaterali fra le università e sono diverse centinaia quelli stipulati tanto da Trieste che da Udine, fra cui quelli con istituzioni di Australia, Canada e Stati Uniti. In Friuli Venezia Giulia arrivano soprattutto studenti spagnoli e tedeschi. In tutto quest'anno 192 a Trieste, 164 a Udine. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. La Regione Friuli Venezia Giulia con la ciclovia pedemontana vince la nona edizione del Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, il premio che viene assegnato ogni anno alle ciclovie verdi delle regioni che promuovono la vacanza su due ruote, con servizi mirati al turismo lento. La giuria ha selezionato i vincitori tra le 25 proposte presentate da regioni, territori e province autonome. La proclamazione oggi a Lucca. La ciclovia pedemontana del Friuli Venezia Giulia è un percorso di 180 chilometri tra Sacile e Gorizia. Segue la linea immaginaria che delimita l'arco alpino regionale attraverso un territorio di elevato valore paesaggistico, ricco di punti di interesse storico, artistico ed enogastronomico. Le Dolomiti friulane, patrimonio UNESCO, la riserva naturale del Cornino, città medievali come Gemona e Pinzano al Tagliamento, l'arte longobarda di Cividale del Friuli, sito UNESCO, Isonzo e Collio e 7 dei 13 presidi slow food della regione. Il tracciato è adatto a tutti per il fondo estremamente confortevole, le pendenze medie inferiori al 2%, i servizi e l'assistenza. In particolare la prima metà del percorso si snoda parallelamente alla ferrovia turistica Sacile-Gemona, consentendo ai cicloturisti di utilizzare treni con materiale storico. Questo è l'ultimo fine settimana dell'anno in cui anche i friulani e i giuliani sono chiamati a lavorare per il fisco. Da lunedì 3 giugno infatti scatta il cosiddetto giorno di liberazione fiscale. Se dall'inizio di gennaio sino a domani si è ipoteticamente lavorato per onorare le richieste del fisco, dall'inizio della prossima settimana fino al 31 dicembre invece lo si farà per se stessi. A ricordarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che sottolinea però come per i 46.000 evasori del Friuli Venezia Giulia sarà un giorno come un altro. L'Istat stima infatti in 46.400 unità le persone completamente sconosciute al fisco o che, sebbene parzialmente in regola, omettono di versare una parte delle imposte e dei contributi previdenziali, violando così le norme fiscali e contributive. La media italiana si attesta sull'11,3%, mentre in Friuli Venezia Giulia è all'8,6%. Solo il Veneto e la provincia autonoma di Bolzano presentano una soglia inferiore alla media della regione più a est del paese. Il gettito maggiore arriva da Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, mentre in Friuli Venezia Giulia il gettito è di 8,4 miliardi. Per liberarci dal fisco sono stati necessari 154 giorni di lavoro. Rispetto al 2023, quest'anno ci liberiamo dal fisco un giorno prima, anche se da calendario sono due, poiché il 2024 è un anno bisestile. Quest'anno il peso del fisco è destinato a scendere. Secondo quanto riportato nel documento di Economia e Finanza, la pressione fiscale nel 2024 è stimata al 4,1% del PIL, in diminuzione di 0,4 punti rispetto alla soglia toccata nel 2023. Questo risultato è ascrivibile al fatto che il PIL nominale è destinato a crescere più 3,7% più velocemente. A Gorizia cambierà sede da lunedì 10 giugno il capolinea cittadino di autobus e corriere. La nuova collocazione del capolinea del servizio extraurbano sarà nella vicina via Ariosto e resterà valida per tutto il periodo estivo fino all'inizio del nuovo anno scolastico. Lo spostamento è necessario per consentire lavori di riqualificazione del piazzale Divisione Martiri della Libertà e della stazione ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana. L'intera area sarà interdetta alla circolazione veicolare, ma sarà realizzata una via pedonale che permetterà di raggiungere l'atrio della stazione. La circolazione stradale in via Ariosto, così come nelle strade limitrofe, dovrà essere temporaneamente modificata. È ripartita oggi la linea TPL FVG APT Gorizia G28B, il servizio Bicibus Grado Gorizia Cormons, che parte da Grado per arrivare fino al Collio, confermate anche nella città di Monfalcone, nei luoghi della Grande Guerra, nelle città di Gradisca e Gorizia. Si pedala fino alla fermata, si carica la propria bicicletta nell'apposito carrello e dopo il percorso in bus si rimonta in sella verso le numerose piste ciclabili alla scoperta di borghi e aree naturalistiche. Il servizio sarà attivo fino a domenica 1 settembre ogni sabato, domenica e giorni festivi, con partenze da Grado e da Cormons e altre corse sul percorso Gorizia-Cormons. Parte questa sera da Pordenone in prima assoluta il tour europeo 2024 dell'orchestra giovanile Gustav Mahler, che toccherà Italia, Spagna e Portogallo con un concerto d'eccezione sotto la bacchetta di Kirill Petrenko, direttore principale e direttore artistico dei Berliner Philharmoniker dall'agosto 2019 per la prima volta alla guida dell'orchestra giovanile Mahler. Petrenko dirigerà la quinta sinfonia di Anton Bruckner per celebrare i 200 anni dalla nascita del compositore austriaco. Per il nono anno consecutivo l'orchestra si trova con oltre 100 giovani e talentuosi musicisti provenienti da tutta Europa in residenza artistica al Teatro Verdi di Pordenone, dove alle 20:30 questa sera è in programma il concerto. È stata presentata ieri la seconda edizione del Festival delle Lingue, che i prossimi 7 e 8 giugno proporrà incontri, presentazioni editoriali, attività ludiche, visite guidate, degustazioni e musica. Sede della manifestazione sarà la Corte di Casa Ascoli, luogo simbolico dell'identità plurale e della storia complessa di Gorizia, qual è il ghetto ebraico e la casa del famoso glottologo, grazie a Dio, Isaia Ascoli. È scattata alle 11:30 da Porcia la terza tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia, gara ciclistica riservata ai dilettanti. 110 km di percorso che porteranno gli atleti a Forni di Sopra. Nella gara di ieri, un circuito con partenza e arrivo a Zoppola, il successo per distacco è andato a Federico Rosario Braffa, corridore lombardo della provincia di Sondrio, classe 2007. Il suo attacco ha sorpreso il gruppo compatto a 7 km dall'arrivo e Braffa ha poi difeso il vantaggio dal ritorno delle squadre di velocisti che puntavano ad un arrivo in volata. Tempo del vincitore per coprire i 90 km del percorso, 1 ora 55 minuti e 53 secondi. Braffa guida anche la classifica generale con 18 secondi di vantaggio sul toscano Leonardo Meccia e sul trevigiano Thomas Turri. Domani, dopo il giornale radio del mattino della domenica delle 8:30, andrà in onda su questo canale radiofonico la rubrica Vita nei campi. Sentiamo un'anticipazione dei contenuti. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani è in apertura il tema delle api e degli impollinatori in pericolo, minacciati da fame, pesticidi, parassiti e cambiamento climatico. A seguire il profumo struggente dei tigli, il corsivo di Licio Damiani, l'ambrosia, pianta dal nome dolce ma aliena e invasiva. E ancora nella rubrica del vino e mezzi tecnici per l'estrazione dei pigmenti dell'uva, i castagni